chissà come si evolverà la neurologia. La fretta e la comodità stanno già soverchiando l'autonomia, assegnando i fini della chiesa alla farmacia. E se in futuro la società tornerà a considerare una patologia l'assenza di fede, avremo un farmaco al posto dell'ostia e del prete, che stilerà paura degli inferi a chi non crede. Mentre illegalmente circoleranno farmaci opposte contro i sensi di colpa, come eresia della borghesia, portando fino in fondo l'idea di fondo di Men in Black o della distopia. Se mi lasci tirandello, forse ordineranno tecnologicamente il cervello tramite cassaforti mnemoniche, perché vorrei dimenticare, puoi rievocare volontariamente le nozioni momentaneamente scomode. O magari registreranno le emozioni, passando le file, superando i metodi astratti per le medesime azioni. Per non parlare del lato notturno, il dominio dei sogni potrebbe renderli parchi di divertimento dell'assurdo. Ma in fondo non mi interessa se un giorno il transumanesimo ci riuscirà. La morale della favola è dopo la pubblicità. Restate in linea. Coscienza sporca? Venne il cristiano e la tua anima splenderà in eterno. La libertà è una bambina viziata, si perde sempre facilmente, va riconquistata. La libertà è una bambina viziata, si perde sempre facilmente, va riconquistata.